Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. Sono nella Pinacoteca di Brera di Milano, dove sono appena state riaperte e riallestite tutte le sale che riguardano la pittura che va dal manierismo al barocco. E protagonista principe di questa sezione è un quadro celeberrimo, La cena in Emmaus di Caravaggio, che è stata presentata in questa occasione accanto a dei quadri che sono stati prestati, uno dei quali, che illustra una Giuditta che taglia la testa di Oloferne, è attribuito a Caravaggio. Quindi c'è una discussione in atto se questo dipinto di collezione privata sia o meno un originale di Caravaggio. Noi forse è meglio che ci concentriamo sul Caravaggio verissimo, cioè quello appunto che è a Brera dal 1939. Questo quadro venne realizzato dal nostro pittore nel 1606, in una circostanza terribilmente drammatica. Stava scappando da Roma, dove aveva ucciso un uomo, e dovendo lavorare e fare qualcosa, riparato nei feudi dei Colonna tra Pagliano e Zagarolo, Caravaggio dipinge questo quadro e lo manda a Roma a vendere. Lo comprerà la famiglia Patrizi, il quadro rimane ai Patrizi fino al 1939, e si è sempre raccontato che gli amici di Brera nel 1939 avevano comprato questo quadro, il che è vero, però di fatto, guardando la cifra che venne pagata, i conti non tornano. Perché? Perché la cifra era di 500.000 lire, gli amici di Brera ci misero 9.000 lire, chi ci ha messo le altre 410.000 lire? Ecco, solo in questa occasione, grazie agli studi fatti per questa esposizione, è una studiosa giovane, spogliando semplicemente i giornali del tempo del 1939, ha trovato i nomi di chi pagò questa ingentissima cifra. Erano persone molto importanti. Intanto erano i proprietari del Corriere della Sera, cioè i fratelli Mario e Aldo Crespi, che misero una consistente somma, e poi insieme a loro un grande industriale della seta che si chiamava Paolo Gerli. Ecco, queste persone restarono completamente nell'ombra. Perché si dice che gli amici di Brera hanno comprato il quadro? Semplicemente perché queste persone comunque facevano parte degli amici di Brera e del Consiglio, e noi siamo molto grati del loro grande gesto munifico.